difficile. Sulla testa o qualcuno ti calpesta. Quel che so, ce lo so, quel che è scuro sembra più puro, ma sto sicuro. La strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte, nel programmino di Gigi D'Agostino, a chiudi gli occhi e accendi il gradino. A quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Un minuto di silenzio. Il programmino di Gigi D'Agostino. Programmino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Sì, che è un grande viaggio. Gigi D'Agostino. Attenzione, popolazione del programmino, buon ritorno. Il D'Agostino ha l'influenza, ma il programmino non fa senza. Il D'Agostino ha l'influenza, ma il programmino non fa senza. Valanghe di messaggi anche questa settimana da tutto il mondo, non solo dall'Italia. Allora, se riesco a leggere, volevo salutare dall'Austria, ovviamente non leggo i messaggi perché mi arrivano un po' in austriaco, un po' in inglese, però ci capisco poco, quindi saluto Sculli o Sciulli, credo si legga Sciulli dall'Austria, Belina dall'Austria, Belina in Italia forse vuol dire qualcosa, però vabbè, Belina dall'Austria, poi dalla Germania, Marion dalla Germania, poi dalla Francia, David, Laura e Ben dalla Francia, che dire, bellissimo, ce ne sono altri, solo che non sono riuscito a raccogliere tutto, insomma, comunque il numero della messaggeria è 333 33, ci sono dei tre, allora, 333 64 67 662, numero mail, posta elettronica gigi@supergigi.com. L'influenza è un po' bastarda, non capisco più una sarda. I feel so good.

viaggio, sul nostro viaggio, col nostro viaggio, nel vostro viaggio, dentro il viaggio. Il programma senza tempo, molto a tempo, non c'è più tempo. Radio Rin, Rin, Radio Rin, questa essenza, questa frequenza. Molta frequenza. Assai strano. Dove c'è gente che per amore del proprio suicidio ammazza altra gente. Assurdità. Non è giusto usare armi diaboliche. C'è un cervello, usa quello. C'è un cervello, usa quello. Nasce per l'orgoglio, purtroppo. Alcuni uomini non accettano la sconfitta e nel momento in cui vivono la sconfitta muoiono dentro, si sentono invadere, assalire e ricorrono a qualcosa che non è più umano, che non è più sano. Ma è assurdo, perché è proprio la sconfitta che fa crescere l'uomo, perché la sconfitta ti fa conoscere i tuoi limiti, e questo è importante conoscerli per andare avanti meglio, per crescere meglio. Quindi ti fa conoscere i tuoi limiti e nello stesso tempo le tue grandezze, i tuoi pregi, ed è proprio lì, è in quel momento che puoi capire, puoi sapere. È proprio lì che non devi morire, è proprio lì che non devi impazzire. È tutto l'orgoglio che c'è in noi che purtroppo ha reazioni letali in qualcuno di noi e genera tutto quello che stiamo vedendo e che vediamo da tempo, purtroppo. Non voglio fare la morale a nessuno, no, nessun diritto. Sono semplici pensieri. Credo che la sconfitta dell'uomo faccia crescere l'uomo. You better watch your step. You must be on your guard and take it slow. And promise me, be careful what you do. I know you're strong, I know you make it on your own without my help. But please make sure you won't be by yourself. Every time I hear my song on the radio, I keep moving closer. Di uomini che vogliono ottenere un qualcosa che io non so ancora cosa, io non l'ho mai capito, perché sono anni che vedo immagini nei telegiornali da quando ero piccolo, vedo terribili bombardamenti, guerre, ma non ho ben capito che cosa vogliono ottenere. Cioè, se qualcuno mi sapesse spiegare Vai, puoi andare col disco, vai, vai. Se qualcuno mi sapesse spiegare che cosa vuoi, perché almeno ce lo dicessero, noi possiamo farci un pensiero nostro, una riflessione, saper dare anche una risposta a tutto questo, anche se non gliela voglio dare perché è assurdo, è l'assurdità, io non gli voglio dare risposta. Però, giusto per capire, perché non ho ben capito perché si è, perché fanno tutto questo casino. Tanto rumore per nulla, diceva William Shakespeare, non so dire. Pronuncia. E poi c'è un'altra cosa che volevo dire, oggi io so che scasso il passero, però la devo dire, un grande network, si dice televisivo, comunque una grande televisione italiana, non faccio nomi, Canale 5, che ha fatto spot tutta la settimana, almeno io li ho visti questa settimana, dove pubblicizzavano un telegiornale, insomma un telegiornale in SMS, credo, una roba che tu puoi ricevere in SMS, solo che se avete visto lo spot, in questo spot venivano utilizzate delle immagini di un funerale che è stato, non c'è altro da dire, insomma sapete benissimo di cosa parlo. Ora voglio dire, non credo sia il caso di arrivare a tutto ciò per pubblicizzare un prodotto, e volevo solo dire a queste persone che hanno ideato questa schifezza, ragazzi, andatevi a sciacquare la faccia. Gigi, ho una domanda, è un tuo fan da Monza che te la manda. Io all'altro mondo forse ci vengo, ma tu quanto starai in console? Sai, ci tengo, spero fino al mattino, caro D'Agostino. Allora, io all'altro mondo forse ci vengo, per chi non lo sapesse, è una discoteca all'altro mondo che è a Rimini, e dove noi festeggeremo e scriveremo e dipingeremo l'ultima notte dell'anno e entreremo piano piano, insinuandoci mano nella mano, nel nuovo anno. Niente, allora intanto volevo rispondere a questo ragazzo che non mi ha scritto il suo nome, c'è questa mania dei messaggi anonimi. Io chiaramente suonerò io tutta la notte insieme al DJ dell'altro mondo, Belloni, e ci sarà un'apertura molto psicadelica. Noi cominceremo molto presto, molto prima della mezzanotte, arriveremo lenti e un po' violenti alla mezzanotte, e poi da lì insomma si scatenerà un po' tutto, non è che vi posso raccontare tutto, e andremo fino al mattino, fino a quando ne avremo voglia, insomma si starà lì. Le specifiche le troverete poi sul mio sito e su quello dell'altro mondo, quindi gigidagostino.com e altromondo.com se volete altre informazioni per il capodanno elettronico a Rimini, all'altro mondo studios. Il programmino di Gigi D'Agostino. Storia di quello là, quell'uomo che sta un po' qui e un po' là, e lui cammina e passeggia e lui pensa, anche a lui piace questa essenza, non riesce a stare senza. Triangolo del piede, lui si alza e non si siede, lui ci crede. tutti gli influenzati del mondo e non solo sulle mani. Teniamoci per mano. Thank you. stavo guardando lassù. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Baby, good night. Sleeping tight and alone, you'll wake up feeling warm. Baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Torino c'è un portiere che parte per fare il carabiniere. In bocca al lupo a colui che non suona, in bocca al lupo a colui che non suona sax. Facciamo un bel applauso a Fax. È un messaggio che hanno mandato Fabio e Scescio. Un abbraccio da tutto il viaggio con quel coraggio a quell'amico di Torino. mio di Gigi D'Agostino. Mani al cielo! Sentivo arrivare il suo peschereccio dal porto di Jesolo. O canto do pescatore! Canto do mar. Canto do mar. Sentivo già quei profumi. Quelle sensazioni. Du pescatore! allora gli appuntamenti del grande viaggio, sia del programmino in giro per i club, per le discoteche, con la musica di Gigi D'Agostino, che sarei io. Allora, aspetta, perché non mi ricordo tutta a memoria. Allora, sabato 29 novembre, è il prossimo sabato, Allora, sabato 29 novembre a Verbania, discoteca Web, spettacolo, e lì bisogna esserci. Partire bene fin dal mattino, bevi caffè latte e Complex che ti prepara zio Gigi D'Agostino, dedicate a Renzuccio con tanto affetto. Ciao Gigi, ammazzi del forum. Ammazzi, come si legge questo qua? Cioè ammazzi, tipo ammazzi nel senso non vedi questo, o ammazzi? Vabbè, comunque quello lì era la dedica su Complex, che però era un'altra canzone che ho messo prima e quindi ho sbagliato tutto. E niente, vado via. Grazie per l'applauso della figura che ho appena fatto. Ciao, quello mio. Dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, dicca, d DJ, dicevamo gli appuntamenti in discoteca, discoteca. Allora, sabato 20 novembre, è che non riesco a parlare perché se c'è il ritmo sotto mi viene da parlare così, DJ, allora sabato 29 novembre discoteca web, poi sabato 20 dicembre a Latina, 24.000 baci, grande raduno, 24.000 baci, DJ, non riesco, viceversa, mi viene proprio... Poi la notte di Capodanno, altro mondo studios, e là, Capodanno 2003-2004, e apriamo presto là, verso le 8, o forse le 9, e mi sono dimenticato cosa stavo dicendo e che mi faccio prendere dal tempo, mi scorre il tempo sotto il piede, mi scorre il tempo, mi si alza il piede, per parlare con un DJ è proprio tuzzuliare dietro la sua spalla. DJ è l'unico modo. Se volete chiedergli qualcosa, se volete parlare con lui, dovete tuzzuliare o tuzzuliarlo sulla spalla e parlare esclusivamente a te. Per scambiare così quattro parole con un DJ bisogna essere preparati, bisogna sapere come affrontarlo. Allora, mi sono arrivate delle mail, dei messaggi, insomma è un po' di tempo che mi chiedono quando uscirà Silence. Beh, il silenzio c'è sempre stato, non l'ho inventato io, no, vabbè, insomma, esce tra una settimana più o meno. Hay veces que hacemos, decimos cosas y no sabemos por qué. Solo sabemos que ahora estamos aquí, en este momento, el único momento válido en mí. El único momento. El único momento. El único momento. El único momento. Hay veces que hacemos, decimos cosas y no sabemos por qué. No lo sappiamo, perché lo sabemos. Però poi lo sappiamo, perché adesso siamo qui. In este momento. E questo momento. Momento. È l'unico momento. Valido. E per quello che esce adesso il disco. È l'unico momento. È l'unico momento. È l'unico momento. È l'unico momento valido per far uscire Silence, no? Vi stavo dicendo che allora venerdì prossimo, se tutto va bene, se non succede niente, uscirà il vinile dell'EP Under Construction 1. Insomma, l'EP non è un album, è un EP, cioè Extended Play vorrebbe dire, insomma con più tracce in versione estesa. Questo è l'EP, questo sarebbe l'EP. Quindi ci sono diverse tracce, c'è qualche canzone, qualche brano strumentale, ed è più che altro un tragitto, un percorso, ecco perché Under Construction, cioè un qualcosa che è continuamente in costruzione, che non è mai terminato, o terminata nel caso di una canzone, terminata nel caso di un brano strumentale, terminato, però anche una canzone può essere strumentale, e quindi, hai capito? Ecco. Quindi secondo me una canzone, insomma un brano, quello che è, non è mai finito, non è mai terminato, è continuamente in costruzione, è continuamente in evoluzione, è continuamente in crescita, ma non è mai finito, non sarà mai finito, ecco perché questo nome, quindi Under Construction, 1, 2, 3, quel che saranno poi più avanti, saranno l'evoluzione di tutto ciò che... Che mi succede dentro, se vi può interessare, se no, niente, è lì, rimarrà lì. Think of this. Allora, dicevamo di Under Construction, quindi questo progetto in continua costruzione non sarà mai completato, ma le varie tappe saranno questi EP che usciranno mano, mano, nella mano. Ci sono contenute anche un paio di brani lenti. Io sto suonando da molto tempo molta disco lenta, molto lenta. Mi piace questo genere lento e violento, mi piace riproporre questa cosa che non c'è più in discoteca. Tornare alla disco lenta e violenta. Alcuni brani li ho inseriti in questo EP e ce ne saranno molti altri più avanti. Questo è il movimento, un movimento fatto di zero generi. Dicevamo brani con una battuta un po' più lenta, ma allo stesso tempo violenti e pieni di energia. E mi piacerebbe poter ricreare insieme a tanti altri produttori, a tanti altri DJ, a tutti i divulgatori di musica, anche un movimento un po' più lento. Beh, io ho cominciato e ci sto provando. Sarebbe bello continuare insieme. Dare vita a un'altra gita che va più in là. Che va più in là e un po' più su. Più su. Quando ero bambino, yeah. Da un po' di più e quando c'è Gigi. Thank you. Arrivederci.